pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Io voglio essere buono. Voglio essere per il resto della mia vita solamente un atto di bontà. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Mettetevi comodi. Stiamo per raccontarvi il secondo tempo di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Londra, in un futuro indefinito. Alex, appassionato cultore della musica di Beethoven, è il capo di un quartetto di giovani teppisti abituati a commettere violenze di ogni tipo. Alla lunga, esasperati dal suo atteggiamento dispotico, i suoi si ribellano e lo consegnano alla polizia. Condannato e imprigionato, Alex si vede offrire una chance di libertà. In cambio, dovrà sottoporsi a una terapia sperimentale chiamata Cura Ludovico. Audiogrammi, in radio, come al cinema. Forza, andiamo, arriva la polizia. Un minuto, Drugo. Ah! Ah! Non ci vedo più! Bamba gli mollò un colpo fortissimo dritto sulle palpebre con una bottiglia di vetro piena di latte. Alex si mise a ululare cercando di vedere qualcosa attraverso il dolore pulsante. E poi gli altri fuggirono, lasciandolo accasciato per terra, mentre la polizia ormai era arrivata. Mio vigliacchi! Sono cieco! Non ci vedo! Oh, lo trascinarono dentro una luminosissima stanza imbiancata a calce. E c'era un odore molto intenso che pareva come un misto di vomito, gabinetti, birra e disinfettanti. Inutile star lì seduti a sperare, fratellini. Io non dico una sola solitaria slovo se non c'è qui il mio avvocato. Conosco la legge, bastardi. E va bene, Tom. Bisognerà far vedere all'amico Alex che la conosciamo anche noi. Ma che conoscere la legge non è tutto. Brutto taglio questo qua, caro Alex. Peccato. Sciupa la tua bellezza. E chi te l'ha fatto? Com'è successo? L'agente alto e grasso si tolse la giacca. Poi venne verso di lui, strinse a pugno una delle sue manone e gliene assestò uno proprio sullo stomaco. E tutti gli altri rozzi si sganasciarono di risate, tranne il capo, che aveva sempre quel suo ghigno stanco e un po' annoiato. Alex dovette appoggiarsi al muro intonacato perché gli mancò il fiato. Ma perché fai così, bastardo? Questo è per la signora tua vittima. Schifoso, lurido, carogna. In quel momento entrò l'ispettore giudiziario, il signor Deltoid, a dare un'occhiata. Il suo ufficio era nello stesso caseggiato e lui aveva l'aria molto stanca e rassegnata quando disse: ma guarda in che stato è questo ragazzo, ma guarda in che stato. È l'incubo di una morte giovane. La violenza genera violenza. Resisteva ai tutori dell'ordine. Questa è la fine del viaggio per me. La fine del viaggio, sì. Non ho colpe, compagno Sir. Parli per me, dica che non sono malvagio. Sono stato tradito dagli altri, Sir. Vero, canta che è un amore, non è vero? Dove sono quei petenti dei miei drughi traditori? Non dovete lasciarli scappare. È stata un'idea loro, compagni. Mi hanno forzato a seguirli. Sono innocente. Adesso sei un omicida, caro Alex. Un omicida. No, non è vero, Sir. Era soltanto una leggera toccata. Respirava ancora, mi creda. Io vengo dall'ospedale. La vittima è deceduta. Lei sta cercando di spaventarmi, lo ammetta, Sir. Questa è una nuova forma di tortura, vero compagno Sir? Sarà proprio la tua tortura. E prego Dio che ti conduca alla pazzia. Il signor Deltoid fece qualcosa che da uno come lui, che aveva il compito di trasformare i cattivoni in bravi ragazzi, non ci si sarebbe mai aspettati. specialmente con tutti quei poliziotti in giro. Venne un po' più vicino e sputò. Sputò. Sputò dritto sulla faccia di Alex e poi s'asciugò la bocca sporca di saliva col dorso della giacca. E Alex si pulì e ripulì la sputata col suo fazzoletto insanguinato. Dopodiché il signor Deltoid se ne andò senza dire un'altra parola. A calci e pugni e spintoni accompagnarono Alex in cella, dove fu messo insieme ad altri 10 o 12, molti dei quali ubriachi. Questo è l'inizio della parte lacrimogena e direi tragica della storia, o compagni e rari amici. Dopo un processo con giudici e giurati, severi giudizi espressi sul vostro affezionatissimo, egli si trovò condannato a 14 anni nella staia 84F, fra checche puzzanti e psicopatici professionali. E lo shock indusse mio padre a picchiare i suoi rucchi dolenti e sanguinanti contro l'ingiustizia di Bog in cielo, e la madre a weweare nel sano dolore materno per l'unico figlio frutto del suo seno che delude il mondo intero proprio a Karashu. Dei suoi soma non seppe più niente, tranne una sola cosa. E fu il giorno che suo padre e sua madre vennero in visita. Gli dissero che Giorgi era morto. Morto come un cane per strada in seguito a una serata di super violenza. Non era certo stato edificante proprio niente. Star chiuso in questo buco d'inferno e zoo umano ormai da 2 anni. Picchiato e torchiato da guardie brutali e in compagnia di criminali e pervertiti, pronti a sbavare dinanzi a un appetitoso malcic, quello il vostro affezionatissimo. Alex stava nella cappella del braccio, dato che era domenica mattina, a leggere la Bibbia. Non gli piaceva molto, tranne la parte del supplizio e della corona di spine, e si vedeva al comando della flagellazione e della crocifissione. Ad un tratto il prete si avvicinò. Padre, io ci provo, non è vero? Tu ci provi, sì. Ce la metto tutta, padre. Certo. Non mi sono reso colpevole di infrazioni al regolamento, non è vero, padre? Certamente no, 655321. Sei molto volonteroso e hai mostrato autentici segni di pentimento. Padre, posso farle una domanda in privato? C'è qualcosa che ti turba, figliolo? È questa nuova cosa di cui tutti parlano, padre. Questo nuovo trattamento che fa uscire di prigione immediatamente e garantisce che mai più ci si torna. Chi mette in giro queste voci? Tu dov'è che ne hai sentito parlare? Le notizie si sanno, padre. 2 guardiani che parlano, per esempio. E per caso qualcuno sente quello che dicono. Lei non mi potrebbe proporre per questo trattamento, padre. Ritengo che tu voglia alludere alla cura Ludovico. Non so come si chiama, padre. So solo che ti fa uscire in fretta e garantisce che non ci si torna di nuovo. Non è provato 655321. Anzi, è solo allo stadio sperimentale per il momento. Anzi, il direttore ha dei seri dubbi. E io ho sentito dire che è anche assai pericoloso. Non mi importa niente dei pericoli, padre. Io voglio essere buono. Voglio essere per il resto della mia vita solamente un atto di bontà. La questione è se questa nuova tecnica renda veramente buoni o no. La bontà viene da dentro. La bontà è una scelta. Quando un uomo non ha scelta, cessa d'essere uomo. Io non voglio sapere il perché o il per come, padre. So soltanto che voglio essere buono. Abbi pazienza, figliolo. Abbi fede nel Signore. Istruisci il tuo figliolo ed egli ti darà sollievo e sarà la delizia dell'anima tua. Amen. Un giorno verso le 11 del mattino ci fu un gran trambusto e un'eccitazione, e da fuori venne qualcosa come un odore di paura. Poi videro il governatore e altri capi con l'aria di gente importante. Camminavano fino in fondo al ballatoio e poi tornavano indietro. Poi tutto il gruppo si fermò davanti alla cella di Alex e il capo l'aprì. Si capiva subito chi era il più importante. Era uno molto alto, con gli occhi azzurri e il più bel completo che si fosse mai visto nel carcere, assolutamente all'ultimo grido. Il governo non può più permettersi di avallare teorie punitive superate. E poi presto potremo aver bisogno di tutte le prigioni per i reati politici. Criminali comuni come questi bisogna trattarli puramente su base curativa. Eliminare l'istinto criminale, nient'altro. Arriveremo a porre tutto in atto entro un anno. La punizione non significa nulla per questi, lo si vede. A loro piace la loro cosiddetta punizione. Con sicurezza e intraprendenza, Alex, spezzando il discorso del governatore, disse: giustissimo, ben detto, sir. Chi lo dico, la maledetta foglia? Chi è stato? Io, sir. Che reato hai commesso? Uccisione involontaria di una persona, sir. Brutale assassinio di donna nel corso della rapina. 14 anni, sir! Perfetto. Intraprendente, aggressivo, estroverso, giovane, fiero, feroce. Questo va. Bene, allora potremmo vedere gli altri bracci. No, per me basta, è perfetto. Voglio il fascicolo al più presto. Questo temibile individuo verrà trasformato da non riconoscerlo. Grazie per l'occasione offerta, mister. Speriamo che tu ne approfitti, giovanotto. Andiamo nel mio ufficio? Volentieri. Quella stessa sera, due guardie dai modi spicci e silenziosi lo trascinarono giù, nel Sancta Sanctorum dell'ufficio del governatore. Il governatore gli diede uno sguardo molto stanco e disse: non hai idea chi fosse quel signore stamane, vero? Quel signore era niente meno che il ministro degli interni, il nuovo ministro degli interni, quello che si chiama una scopa nuova. Allora, queste nuove ridicole idee sono accettate, ormai gli ordini sono ordini, ma ti posso dire in confidenza che io non approvo affatto. Occhio per occhio, dico io. Uno ti colpisce e tu gli rispondi, no? Perché allora lo Stato ferocemente colpito da voi delinquenti non può restituire il colpo? La nuova teoria è che non può. La nuova teoria è che i cattivi noi li rendiamo buoni. Il che francamente a me sembra anche ingiusto. Chiudi quella maledetta fogna, teppa! Tu verrai trasformato. Domani andrai da questo medico, Brodsky. Lasci questo carcere per essere trasferito al laboratorio medico Ludovico. Si presume che potrai essere rimesso in libertà tra una quindicina di giorni. L'idea ti fa piacere, immagino. Rispondi alle domande del signor direttore! Sì, sir. Grazie mille, sir. Ho fatto del mio meglio qui, veramente, sir. Sono molto grato a tutti quanti, sir. Firma questo. Non leggerai, firma! È una formalità d'obbligo, dice che scegli spontaneamente di avere la condanna commutata con accettazione del trattamento Ludovico. Anche questa è un'altra copia. Email audiogrammi@radio24.it. Il giorno dopo fui portato al centro medico Ludovico fuori città e mi sentivo un malenchi triste a dar l'addio alla vecchia staia, come sempre quando si lascia un posto al quale ci si è abituati. Era un edificio nuovissimo e aveva una specie di odore freddo, quasi vischioso, che faceva venire la pelle d'oca. Alex stava lì in quell'orribile androne nudo e annusava l'aria con il naso e con tutti gli altri sensi allerta. Gli dissero di togliere la divisa da carcerato e gli dettero un bellissimo pigiama, tutto verde, l'ultimo grido in fatto di biancheria da notte. E gli dettero anche una bella vestaglia calda e delle comodissime pantofole. Buongiorno Alex, io sono la dottoressa Brano, l'assistente del dottor Brodsky. Buongiorno signora, bella giornata, vero? Bella davvero, sì. Come si sente stamane? Bene, bene. Bene, tra pochi minuti viene il dottor Brodsky e comincia il trattamento. Lei è molto fortunato ad essere stato scelto. Me ne rendo conto, signore, sono molto grato a tutti quanti. Allora saremo amici, non è vero Alex? Lo spero, signora. Lei è alquanto denutrito, quindi dopo i pasti le facciamo un'iniezione. Ora, guardi, si giri sul fianco destro, per favore, e tiri giù i pantaloni del pigiama. Ma in cosa consiste esattamente questo trattamento? Oh, è molto semplice in realtà. Le facciamo vedere qualche film. Film? Come andare al cinema? Qualcosa del genere. Bene, allora. Mi diverte vedere i vecchi film ogni tanto. E me li sono visti e come? Dove mi hanno portato, compagni, non era affatto un cine. mai visto niente di simile. M'hanno messo una camicia di forza e la mia Gulliver era legata a un poggiatesta con tanti fili elettrici che ne uscivano. Poi mi hanno piazzato dei fissapalpebre in modo che non potessi chiudere gli occhi in nessun modo. Mi sembrava un po' strano, ma io li ho lasciati fare tutto quello che volevano fare. Se mi davano la libertà entro 2 settimane, ero disposto a lasciarli fare tutto quello che volevano, cari fratelli. E poi la luce si spense e Alex rimase al buio tutto solo e spaventato, senza potersi muovere o chiudere gli occhi o far nulla di nulla. E poi cominciò il film, con una musica d'atmosfera altisonante, grave e piena di dissonanze. Comparve un'immagine sullo schermo, ma senza nemmeno un titolo di testa. Quello che si vedeva era una strada, tipo una strada qualsiasi di una città qualsiasi, ed era notte buia e fonda. E i lampioni erano accesi. Era un pezzo di film ben fatto, professionale, senza gli sfarfallamenti e i tremolii che ci sono per esempio quando si vede uno di quei film porno girati in casa da qualcuno. Il primo film era ottimo, competente, un vero cine come li fanno a Hollywood. Il sonoro era proprio Carasciù. Ti slusciavi tutti gli urli e i gemiti, molto realistico, tanto che sentivi perfino il respiro pesante e l'ansimare dei talciocchi malcicchi. E poi, che si vede? Il nostro vecchio amico il succo di pomodoro, lo stesso che adoperano in tutti gli studi di Hollywood, comincia a scorrere a fiotti. Magnifico. È buffo come i colori del vero mondo diventano veramente veri soltanto quando uno li vede sullo schermo. Ora, mentre io guardavo tutto questo, cominciavo ad avere l'impressione di non sentirmi affatto benissimo. Ma lo attribuivo al mangiare abbondante e alle vitamine. E cercavo di non pensarci, per concentrarmi sul prossimo film che zompava subito su una giovane devotchka che si beccava l'amato su e giù, su e giù. Prima da uno dei malcicchi, poi da un altro, poi da un altro. E quando si arriva al sesto o settimo malcicco che grigna e ride e poi lo infila, io comincio ad avere nausea, ma non posso chiudere gli occhi. E anche se cerco di girare le palle visive, non riesco ad evitare di vedere lo schermo. Ora vomito. Devo vomitare. Datemi un catino per vomitare. Quando quel pezzo di film terminò, Alex sentì la voce del dottor Brodsky che dal tavolo di controllo gli diceva: fra non molto il farmaco darà al soggetto la sensazione di una paralisi quasi mortale, accompagnata da senso di terrore e di disperazione. Mi sento male. Uno dei soggetti sperimentali l'ha descritta come una morte da soffocamento o da annegamento. Ed è in questa fase che noi riteniamo che il soggetto compia una proficua identificazione fra la sua catastrofica esperienza ambientale e la violenza cui assiste. Mi viene da vomitare! Quel pomeriggio Alex fu costretto a vedere molti altri filmati orribili. E fu davvero un sollievo quando anche l'ultimo terminò e venne finalmente riportato in camera. Il dottor Brodsky è molto soddisfatto. Lei ha reagito molto positivamente. Domani faremo 2 sedute di cura, mattino e pomeriggio. Come dire che mi devo sorbire 2 film in un giorno? Può darsi che lei si sentirà un po' stanco alla fine della giornata, ma dobbiamo essere severi. Lei deve guarire. È stato orribile. Si capisce che è orribile. La violenza è una cosa orribile, sa? E lei lo sta imparando. Lo impara così. Ma quello che non riesco a capire è il senso di nausea che mi viene. Io non ho mai avuto nausea prima, anzi, era proprio l'opposto. Sia a farla che a guardarla, io mi sentivo molto Carasciò. Lei si è sentito male perché adesso comincia a stare meglio. Vede, quando si è sani si risponde a spettacoli di orrore e violenza con paura e con nausea. Lei comincia ad essere sano. Vedrà che domani sarà più sano ancora. E fu il giorno dopo, fratelli, Avevo fatto del mio meglio mattina e sera per far loro piacere e star lì a guardare da carasciuma al cieco cooperante nella mia sedia di tortura, mentre quelli mi facevano scintillare atroci bocconi di ultraviolenza sullo schermo. Non c'era dialogo in quel film, soltanto musica. Però nel mio dolore e nausea la riconobbi quella musica che vibrava ed echeggiava. Era il Ludovico Vano, la nona, quarto movimento. E poi si sentì di nuovo male sul serio. Quello che ora lo costringevano a vedere era una di quelle cose che prima non gli sarebbe sembrata tanto male. Si trattava soltanto di 3 o 4 tizi che si dedicavano a un po' di ultraviolenza, ma ora Alex non ne poteva più. Si sentiva male ora, veramente male. È un delitto! Delitto! Delitto! Delitto! Delitto? Che cosa sarebbe delitto? Quello! Usare Ludovico Vano così non ha mai fatto male a nessuno! Beethoven ha solo scritto musica! Il dottor Brodsky disse: mi spiace, Alex. È per il suo bene. Dovrà avere un po' di pazienza. Non è giusto! Non è giusto che io abbia nausea quando sento il dolce, dolce Ludovico Vano! Niente da fare, colpa sua! La scelta l'ha fatta lei! Non c'è bisogno di continuare, sir! Ho capito finalmente che tutta questa ultraviolenza e uccidere è sbagliato! Sbagliato, terribilmente sbagliato! La lezione è servita, sir! Ora capisco quello che non avevo mai capito! Sono guarito, porco cane! Non ancora guarito, giovanotto! Ma, sir! La prego! Ora so che è sbagliato! Sbagliato perché la cosa è antisociale, sir! Sbagliato perché ogni uomo ha il diritto di vivere felice senza venire torchionato e accoltellato! No, no, buono, deve lasciar fare a noi. Ma si faccia coraggio. Tra 15 giorni lei sarà in libertà. Ogni giorno era la stessa storia e continuò così per tutto il tempo della cura. Alex aveva l'impressione di essere in quel posto lurido da quasi un'eternità e che ci sarebbe rimasto ancora per un'altra eternità. Invece si trattò davvero di 15 giorni e venne finalmente il momento in cui gli dissero che i 15 giorni erano finiti. Quel mattino gli restituirono la sua camicia, i suoi pantaloni e i suoi begli stivali, tutti puliti, lavati e stirati e lucidati. E gli restituirono persino il coltello che nei giorni felici usava per seminare il panico e la violenza che tanto lo divertivano. Mentre si rivestiva, Alex chiese all'infermiere che gli stava accanto dove si sarebbe dovuto presentare per uscire. Ma quello non gli disse nulla, sorrideva e basta. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook. E in podcast su radio24.it. Lo guidarono in una grande stanza con un palco e una platea, nella quale riconobbe il governatore, il capo delle guardie e quell'uomo molto importante e molto ben vestito che era il ministro degli interni. Tutti gli altri invece non li conosceva. C'erano anche il dottor Brodsky e il dottor Branum, ma non avevano più il camice, erano invece vestiti all'ultimo grido della moda, come fanno i dottori quando diventano così importanti da poterselo permettere. Il ministro si alzò in piedi e disse: signore e signori, a questo punto vi presentiamo il soggetto in persona. Sta, come vedete, bene e ben nutrito, dopo aver fatto una buona dormita e un buon breakfast, né sotto droga né sotto ipnosi. Vi annuncio che domani lo rimandiamo fiducioso di nuovo nel mondo. Un giovanotto per bene che potrà essere utile alla società. Quale trasformazione, signore e signori, dal miserabile mascalzone condannato dallo Stato 2 anni fa a una punizione improduttiva. Identico dopo 2 anni. Identico? Cosa dico? Niente affatto. In prigione imparò il sorriso falso, la stretta di mano dell'ipocrisia, il grigno untuoso e ossequioso. La prigione gli aveva insegnato nuovi vizi, oltre a confermarlo in quelli che aveva praticato già prima. Il nostro partito ha promesso la legalità e l'ordine e strade sicure per gli ordinari pacifici cittadini. Stiamo ora adempiendo le nostre promesse elettorali. Signore e signori, questo è uno storico momento. Il problema della violenza criminale sta per essere risolto ormai. Ma basta con le parole. Lasciamo che siano i fatti a parlare. Veniamo ai fatti. Osservate da voi. Alex era un po' intontito da tutto quello sproloquiare e cercava di realizzare che era di lui che stavano parlando. Poi le luci nella sala si spensero e due riflettori illuminarono il palco. Uno di questi era puntato su Alex e l'altro su di un tipo sbucato all'improvviso e che Alex non aveva mai visto prima. Sarà stato sui 30 o sui 40 o sui 50 e iniziò a dire: «Hello, massa di merda! Non ti lavi molto, vero? A giudicare dall'orribile puzza!» «Perché dici questo, compagno? Ho fatto la doccia stamattina!» «Oh, ho fatto la doccia stamane! Mi vuoi dare del bugiardo?» «No, fratello!» «Allora stai pensando che io sia uno stupido?» Iniziò così una serie di provocazioni verbali accompagnate da schiaffi e botte. «Perché fai così, fratello? Io non ti ho fatto nessun torto.» «Vuoi sapere perché l'ho fatto? Beh, vedi, io faccio così! Oh! È così! È così! Perché la gente del tuo tipo non mi va! E se non ti sta bene, se vuoi reagire, beh, avanti, prova! Coraggio, prova! Su, forza! Sto per vomitare! Ti rivolta lo stomaco, eh? Ti prego, fammi alzare!» La nausea e il disgusto avevano trionfato e trasformato quella che una volta era la gioia della lotta in una sensazione di morte. «Grazie, grazie mille. Va bene, basta così. Grazie infinite, signore e signori.» Dopodiché questo tizio fece una specie di inchino e se ne andò con un passo tipo danza, come un attore, mentre tutte le luci si riaccendevano sopra Alex che sbatteva le palpebre. Il ministro si alzò e disse: «Non ti senti più male adesso, vero?» «No, sir. Sto benissimo, sir.» «Bravo. Andava bene, sir. È andata bene, sir.» «Bene, ragazzo mio. Tutto perfetto. Vedete, signore e signori, il nostro soggetto, paradossalmente, viene spinto verso il bene dalla spinta del male. Ogni impulso di usare violenza si accompagna ad un forte senso di malessere fisico. Per liberarsene, il soggetto è costretto ad assumere atteggiamenti diametralmente opposti. Questo adesso è un vero cristiano, pronto ad offrire l'altra guancia, disposto ad essere crocifisso anziché a crocifiggere, nauseato al solo pensiero di uccidere una mosca. Recupero, gioia per gli angeli del Signore. L'importante è che la cura funziona.» E il giorno dopo, il vostro umile e affezionatissimo fu rimesso in libertà. Alex tornò a casa dei suoi, entrò in sala dove c'erano suo padre, sua madre e uno sconosciuto seduti sul divano. Tutti e tre leggevano gli stessi articoli dei quotidiani e tutti e tre guardavano il faccione di Alex in seconda pagina. Sotto la foto, una didascalia spiegava che quello era il primo diplomato del nuovo istituto statale per la redenzione dei criminali, che era stato guarito dai suoi istinti criminali in soli 15 giorni e che adesso era stato trasformato in un buon cittadino rispettoso delle leggi. «Figlio! Figlio!» «Ciao, ciao, ciao, Paimon!» «Alex!» «Ma, come stai? Che piacere! Va!» «Ciao, che bella sorpresa!» «E allora, come va, come va?» «Oh, bene, bene! Insomma, ce la caviamo!» «Beh, eccomi qua!» «Sì, fa piacere vederti.» «Ma perché non ci hai fatto sapere niente, Alex?» «Scusa, ma volevo fare una bella sorpresa a te, appa.» «Una sorpresa, certo. Un po' imprevista, forse.» «Lo stavamo leggendo sui giornali in questo momento.» «Però avresti dovuto dircelo. Non che non ci faccia piacere rivederti. E poi, tutto guarito, eh.» «Esatto, hanno fatto un lavorone, pa. M'hanno rimesso completamente a nuovo. Beh, Qui è tutto come prima, eh? Oh, beh, sì. Ehi, pa. C'è uno strano individuo che è seduto sul sofà e mastica lonticchi di pane tostato. Quello è Joe. Vive qui ora. Con noi. Sta a pensione. Alla tua stanza, Alex. Alex si avvicinò al finto sconosciuto e disse: Come stai, Joe? Trovi comoda la stanza? Nessuna lamentela? Ti conosco bene a te. So cosa hai fatto. Hai spezzato il cuore ai tuoi poveri vecchi genitori. Così sei tornato, eh? Per ricominciare ancora una volta a torturarli i tuoi poveri vecchi genitori? Ma ci sono qua io stavolta, perché vedi, si dà il caso che io sia stato più un figlio per loro che un pensionante. Alex si sarebbe volentieri abbandonato a un po' di sana ultraviolenza contro Joe se la sensazione di nausea non avesse incominciato a risvegliarsi in lui al solo pensiero. Joe! Joe! Non vi metterete a litigare proprio qui, spero. Potresti almeno metterti la mano davanti alla bocca, è un vero schifo. Ti senti bene, figlio? Dad, è la cura che ha fatto. Ma dove l'avete messo loro tutte le mie cose? È stato tutto portato via dalla polizia. La nuova legge, sai, per poter indennizzare le vittime. Ma allora che devo fare? Voglio dire, la stanza dove lui sta è la mia, nessuno lo può negare. E questa è casa mia. Voi che proposte avete, Pai? Ma quali? Ma bisogna rifletterci un momento. Non possiamo sbattere giù fuori di casa così su due piedi. Capisci? Joe è qui per lavoro. Ha un contratto per 2 anni. E abbiamo fatto un accordo, un impegno, non è vero, Joe? E inoltre, Joe ha già pagato 2 mesi. Quindi, qualunque cosa si decida, non è che uno gli possa dire di andarsene. Non ti sembra? No, e poi non è solo questo. Soprattutto io devo pensare a voi due. Voi mi avete fatto da padre e da madre. Beh, trovo che non sarebbe né giusto né onesto, dico, che io me ne andassi e vi lasciassi in balia di questo giovane mostro, che non si è mai comportato come un figlio. Guarda, adesso piange. È soltanto furbizia e ipocrisia. Provi a pentirsi degli errori che ha commesso. E si trovi un'altra stanza lontano da qua. E impari bene che un malvagio come lui non si merita il padre e la madre che ha. D'accordo. Ora conosco la situazione. Ho sofferto. E adesso tutti vogliono che continui a soffrire. Hai fatto soffrire gli altri. È giusto che adesso tu soffra ben bene. Bene. Io me ne vado via. Non mi rivedrete mai più qua. Me la cavo da solo. Vi ringrazio molto e che vi pesi sempre sulla coscienza. No, ma no, non prenderla così, figliolo. Ma coraggio, è meglio così. Così Alex prese l'autobus per il centro e si mise a passeggiare nel vecchio quartiere vicino al porto. Mentre stava proprio per mettersi a piangere, gli si avvicinò un vecchio molto malmesso che, senza mai alzare gli occhi di fronte a lui, disse: Avresti qualche spicciolo da darmi, fratello? Alex tirò fuori dalla tasca delle monete e il barbone lo ringraziò, ma questa volta alzò gli occhi e lo guardò, e scattò qualcosa nella memoria di tutti e due. Santa madre, per le corna del diavolo, che tutti i santi e beati di Irlanda ci proteggano dal cielo. Io non dimentico mai una faccia, per Dio. Io non dimentico nessuna faccia. Mi faccia, compagno, io non t'ho mai visto. Questo è quel porco velenoso che a momenti mi ammazza. Lui e i suoi compagni hanno preso a bastonate e a calci. Fermalo! Ridevano del mio sangue e dei miei lamenti. Questo porco è una... Fui come sommerso da un'ondata di sporchi puzzosi vecchiacci che cercavano di afferrare il vostro affezionatissimo con le loro deboli rucche e artigli callosi. La vecchiaia che cerca di vendicarsi della gioventù. E io non ci potevo fare proprio niente, fratelli, perché era meglio prendere le loro botte che sentire la mia nausea e quell'orribile dolore di stomaco. Poi arrivarono dei poliziotti abbastanza giovani e uno disse: via, via! Avanti, avanti, basta adesso! È vietato turbare l'ordine pubblico! Circolate, birichini, circolate! Qualche problema, signore? Alex si sentiva come inebetito e non ci vedeva nemmeno tanto bene, ma era sicuro d'aver già incontrato quegli sbirri in qualche posto. Quello che lo teneva non lo conosceva per niente e gli sembrava anche un po' troppo giovane per essere un poliziotto. Ma gli altri due era certo di averli già visti. Facevano sibilare i frustini di ordinanza alla cieca e con gran giubilo e gioia, e poi gongolando per il grande spasso si voltarono a guardarlo. Alex era confuso, dato che l'uniforme e l'elmetto mascheravano parecchio, ma poi non ebbe più dubbi. Erano Billy Boy, il grassone, il suo vecchio nemico, e l'altro, naturalmente, era Bamba, che una volta era stato il suo soma e nemico anche lui di quel grasso caprone fetente di Billy Boy, ma che adesso era uno sbirro con tanto di uniforme, elmetto e frustino per mantenere l'ordine. Guarda, se non è il caro Alex. È un po' che non ci si vede, come va? È impossibile, non ci posso credere. No, non c'è né trucco né inganno. Credi, credi pure ai tuoi occhi. Niente magia qui, Alex. Per dei vecchi drughi come noi, il lavoro più adatto è questo. Poliziotti. Alex non riusciva a capacitarsi che fossero loro. Proprio non ci riusciva. Lo afferrarono stretto e lo trascinarono su una camionetta che li aspettava. Lo spissero dentro e Alex non riusciva a non pensare che non poteva che essere tutto uno scherzo e che a un certo punto Bamba si sarebbe levato l'elmetto. Ma non lo fece. Ma come? Ma perché, miei cari trucchi? Io non capisco proprio. I vecchi tempi sono finiti, andati. E ho pagato per tutto quello che ho fatto. Pagato, certo. Mi hanno curato. Curato, certo, ce l'hanno detto anche a noi. Erano in aperta campagna, tutta alberi spogli e qualche cinguettio qua e là. E in lontananza c'era qualche specie di macchina agricola che ronzava. Si stava facendo buio, dato che era pieno inverno. Non c'era nessuno in giro, solo loro. Poi Bamba o Billy Boy gli dettero un cazzotto e Alex crollò a terra. E rimase là, immobile, disteso sull'erba, mentre le botte gli piovevano addosso. Faceva freddo, ma lui il freddo manco lo sentiva. Poi si ripulirono le mani e si rimisero l'elmetto e i giacconi che si erano tolti e risalirono sulla camionetta. Il suo ex soma e il suo ex nemico ripartirono verso la città salutandolo con la mano. Alex rimase per terra tutto pesto e battuto. Dopo un po' era tutto un dolore e poi cominciò a venir giù la pioggia ed era proprio ghiacciata. Dove volete che andassi? Senza una casa, senza un soldo. Mi facevo pietà. Casa, casa, casa. Era a casa che volevo andare. E a una casa arrivai, fratelli, senza neppure accorgermi nello stato in cui ero, che c'ero già stato una volta in quella casa. Alex aprì il cancello e scivolò giù per il sentiero, dato che la pioggia stava diventando ghiaccio. Bussò alla porta, gentile e patetico. Non venne nessuno. Così bussò un po' più forte. Poi la porta si aprì e una voce maschile disse: sì, cosa c'è? Appena l'uomo che gli apparve davanti aprì la porta, Alex barcollò e cadde per terra. Frank, bisogna fare qualcosa per questo ragazzo. Santo cielo, ma che ti è successo, figlio mio? E ci credereste, fratelli e soli amici? Fu allora che il vostro affezionatissimo si accorse di dove era e come mai aveva avuto la sensazione di esserci già stato. Ma mi sentivo al sicuro, non poteva riconoscermi, perché ai bei tempi spensierati, io e i cosiddetti drughi, portavamo maschere che ci anonimizzavano molto carascione. Mi hanno picchiato, sir. La polizia mi ha pestato, sir. Io ti conosco! La tua foto sul giornale o mi sbaglio? Non eri sul video stamattina? Non sei la povera vittima di questa orribile nuova tecnica? Sì, sir. Precisamente proprio io, sono come dice lei, sir. Una vittima. Allora, per Dio, che ha mandato qui la provvidenza. torturato in prigione e fuori torturato dalla polizia. Andò di sopra e fece un bagno caldo. E ora, anche se era tutto un dolore, gli sembrava che presto si sarebbe sentito meglio. Mentre Alex si rilassava nella vasca canticchiando «I'm singing in the rain», lo scrittore fece una telefonata. «Questa può essere la più forte arma delle nostre mani per garantire che il governo non venga rieletto alle prossime elezioni. Il governo si vanta molto, come lei sa, di come ha diminuito la delinquenza in questi ultimi mesi, arruolando brutali canali della polizia, applicando tecniche di condizionamento che sottrimono». A quel punto, per lo scrittore, era tutto chiaro. Alex si era fatto una bella dormita senza nemmeno un sogno e dal piano di sotto saliva un profumo piacevolissimo di roba fritta. Buonasera, sir. Buonasera. È molto gentile, sir, a lasciarmi tutto questo. Non c'era nessuno quando ho finito il bagno e ho cominciato. Spero vada bene, sir. Ma certo. Sono buoni, almeno? Squisiti, sir, squisiti. Assaggi il vino. Cin cin. Felicità. Mia moglie faceva tutto lei perché io potessi scrivere, lo sa? Sua moglie è via? No, è morta. Mi dispiace moltissimo, sir. Fu sottoposta a violenza, capisci? Fummo aggrediti da una banda di crudeli delinquenti giovanili qui in casa, anzi proprio qui dove siamo ora. Io sono rimasto un povero storpio, ma per lei lo strazio è stato troppo forte. Adesso lei, un'altra vittima dell'era moderna. Ma lei può essere aiutato. Ho telefonato a degli amici mentre lei faceva il bagno. Amici, sir? Sì, vogliono aiutarla. Aiutare me, sir? Certamente. Vedrai che sono loro. Ma io non voglio portare altro disturbo. Sarà meglio che me ne vada via. Ma no, mio caro, nessun disturbo. Così, sì. Nell'ingresso c'erano un uomo e una donna. E questo è il giovanotto, eh? Piacere, sir. Hello. Signora, piacere di conoscerla. Hello. Chiedo molte scuse se la disturbo a questa tarda ora, ma ho sentito da Frank che lei aveva dei problemi e siamo venuti a vedere se possiamo esserle utili. Molto gentile, sir. La ringrazio molto. Pare che lei abbia avuto un alquanto sgradevole incontro con la polizia stasera. Sì, in un certo senso, sir. E ora come si sente? Molto meglio, grazie, sir. Si sente di parlare e rispondere a domande? Certo, sir, certo. Bene, come dicevo, ho sentito la storia e il suo caso ci interessa. Vogliamo aiutarla. Grazie mille, sir. Bene, vogliamo venire al dunque? Bene, bene, sir. I giornali dicevano che oltre ad essere stato condizionato contro atti di violenze sessuali, lei per errore è stato condizionato anche contro la musica. Veramente io credo che non l'hanno fatta apposta. Io ho una passione per la musica, specialmente Beethoven. Lodovico, ma Beethoven. Per combinazione, mentre mi stavano facendo vedere un pessimo film su di un campo di concentramento, il commento musicale era proprio un pezzo di Beethoven. E così lei adesso ha la stessa ripugnanza per la musica che ha per il sesso e la violenza? No, signora, vede, non tutta la musica, soltanto la nona. Vuol dire la nona sinfonia di Beethoven? Esatto, io la nona non la posso più sentire. Quando sento la nona, ho strani dolori che mi fanno soffrire. Voglio solamente morire. Alex, dopo quella frase, svenne e cadde di testa sul tavolo. Mi svegliai. Nausea e dolori dappertutto, come un animale. Poi ho capito cos'era. La musica che saliva dal pavimento era il nostro vecchio Ludovico Van e la temuta nonna. Ed un tratto capì cosa dovevo fare, quel che volevo fare, farmi fuori, renderla, orbitarmi per sempre fuori da questo mondo sporco e crudele. Un momento di dolore magari, ma poi il sonno, per sempre, per sempre, per sempre. Saltò e cadde di schianto sul marciapiede. Ma non morì, oh no. se fosse morto non avrebbe scritto ciò che ha scritto. Pare che il salto non fosse da un'altezza sufficiente a ucciderlo, ma si spezzò la schiena, i polsi, le gambe e sentì un dolore fortissimo. Ma prima di svenire si rese conto chiaro e tondo che non c'era un solo uomo in quell'orrendo mondo che fosse dalla sua parte e che quella musica attraverso la parete era stata predisposta da quelli che avrebbero dovuto essere i suoi nuovi amici. Tutto questo Alex lo pensò nella milionesima frazione del minuto prima di abbandonare il mondo e il cielo e tutto il resto. Il luogo dove si risvegliò 6 giorni dopo una lunga pausa nera che avrebbe potuto durare 1 milione di anni era un ospedale, tutto bianco e con quell'odore tipico degli ospedali, così acido e freddo e pulito. Tornai in vita dopo un lungo nero intervallo, presa poco 1 milione di anni. Aveva delle bende tutto intorno alla testa, eppure le braccia erano bendate con delle asticciole fissate alle dita come si fa per i fiori per farli ricrescere dritti. Le gambe erano tutte irrigidite ed era attaccato con una flebo a una sacca di sangue appesa dietro la testa, ma lui non sentiva nulla. C'era un'infermiera seduta accanto al letto e stava leggendo qualche articolo di giornale stampato fitto fitto. Alex riuscì a vedere un'orribile foto che lo ritraeva tutto sporco di sangue sopra una barella e gli parve di ricordare tutto un gran scoppiare di luci che dovevano essere i fotografi. Con un occhio riusciva anche a leggere i titoli e poi c'era la foto di uno che gli sembrava di riconoscere e che somigliava al ministro degli interni. Il governo accusato di metodi inumani nella riforma penale. Ministro responsabile di metodi di cura inumani. Governo assassino, Alex. Il suicidio di Alex sarebbe dovuto alle cure ricevute. Un paio di giorni più tardi, nella stanza di Alex entrò una dottoressa piuttosto giovane e con un sorriso mieloso. Adesso le mostro delle diapositive e lei deve dirmi quello che le viene in mente, d'accordo? Certo, d'accordo. Lei deve dirmi cosa direbbe la persona interessata. Sulla prima pagina c'era una foto di un nido di uccelli pieno di uova e Alex disse: con gli ovetti? Io li vorrei spiaccicare bene. Poi la dottoressa voltò la pagina. C'erano delle foto di ragazze nude e Alex disse: Non ho tempo per fare su e giù, amore. Devo leggere il contatore. Giusto. Poi c'erano delle figure di persone che ricevevano lo stivale in pieno viso e un fiume di sangue dappertutto. E Alex disse che gli sarebbe piaciuto farlo anche alla dottoressa e così via. Bene, allora questo è sufficiente. Tutto bene? E quante ne ho indovinate? Questo non era un telequiz, ma secondo me lei certo guarirà completamente. E quando me ne posso andare via allora? Oh, non ci vorrà molto ormai. Così ho aspettato. E, oh fratelli, come sono migliorato. E poi un bel giorno m'hanno annunciato una visita specialissima. Alle 2:30 del pomeriggio c'erano un mucchio di fotografi e giornalisti con taccuini e matite e per poco non fecero squillare anche le trombe. Ed ecco che arrivò l'ospite importante e tanto atteso e naturalmente altri non era che il ministro degli interni, vestito all'ultimo grido e con il suo codazzo da politico. Bene, a quanto pare hai una corsia tutta per te. Certo, sir. Beh, sono contento che cominci a star meglio. Sono sempre stato in contatto con l'ospedale, naturalmente, e adesso sono venuto di persona a vedere come stai. Ho sofferto i tormenti dell'inferno, sir. Ti posso dire in tutta sincerità che io e il governo di cui faccio parte siamo molto spiacenti, carissimo. Spiacentissimi. Purtroppo abbiamo seguito pareri scientifici che sono risultati inesatti. Ma un'inchiesta accerterà le responsabilità dovunque siano. Tu però devi considerarci tuoi amici. Ti abbiamo rimesso a posto con le migliori cure possibili. Non ti abbiamo mai voluto male. Non è un segreto che il governo ha perduto molta popolarità per causa tua, figliolo. C'è chi dice che alle prossime elezioni saremo battuti. La stampa ci ha criticato molto severamente per quel che abbiamo cercato di fare. E tu, Alex, puoi contribuire molto a cambiare l'opinione pubblica. Mi sono spiegato chiaro? Così limpido come un cielo d'estate sempre blu. Fidati di me, Fred. Bravo, sei un amico. Ah già, mi hanno detto che ti piace la musica. Ho una piccola sorpresa per te. Sorpresa? Beh, spero che ti piacerà. Come, diciamo così, come simbolo della nostra nuova intesa. Una nuova intesa tra due vecchi amici. E la nona fu. Ed entrarono i fotografi e immortalarono Alex e il ministro che si davano la mano, come due capi di governo dopo un importante accordo, mentre Alex stava lì ad ascoltare quella bellissima musica con gli occhi chiusi. Il ministro gli fece firmare un foglio. Alex aprì un momento gli occhi per firmare, senza sapere cosa stava firmando, e anche fregandosene di saperlo. Poi fu lasciato solo con la gloriosa nona di Ludwig van. Oh, era magnificenza! E rivide molto chiaramente se stesso che correva e correva, tagliando l'intero viso del mondo con il suo amato coltello. E poi sangue dappertutto, e poi tanta superviolenza, e calci, e pugni, e sesso, e tanto sesso, mentre l'adagio e l'ultimo movimento cantato dovevano ancora venire. Ero guarito. E come? I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Testo tratto da Arancia Meccanica di Anthony Burgess, Einaudi Editore. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.